trasmettiamo Proxy Bar. Proxy Bar. Proxy Bar. L'after hour sulle applicazioni e sui contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. In studio Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Solo su Radio Imago. Buonasera a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti a Proxy Bar. Benvenuto Stefano Mizzella. Buonasera a tutti, c'è Antonio. Allora, Daniela non è con noi perché ha la febbre, la verità è che è anche molto stanca perché era in debito di sonno, di energie, poi il sito sta diventando ancora più bello, ci sono tante cose, il palinsesto della radio si sta ulteriormente arricchendo e quindi a farne le veci abbiamo Stefano che peraltro è già intervenuto alcune volte in trasmissione stupendoci per la sua impressionante preparazione. Proverò a fare le veci anche se sarà un arduo compito. Allora, oggi parliamo di un tema ancora una volta forse un po' troppo serioso per Proxy Bar. Noi cerchiamo sempre di sorridere quando parliamo di queste cose, però non potevamo non affrontare il tema del corporate blogging, che poi in realtà è una scusa per parlare di come sta cambiando in generale, con le innovazioni apportate dal cosiddetto Web 2.0, la comunicazione aziendale. Lo faremo con un esperto e direi che possiamo partire. Consumatori dedicano sempre meno attenzione alla comunicazione tradizionale unidirezionale proveniente dalle aziende e cercano invece un dialogo informale ed interattivo con persone reali all'interno dell'azienda. Il classico freddo comunicato stampa e la pubblicità tradizionale non sono più sufficienti. I blog aziendali stanno radicalmente cambiando il modo con il quale si comunica e si fa marketing con i propri clienti, attuali e potenziali. Un blog è un diario online, scritto in modo informale, come quando si parla con i propri amici e colleghi. Se è gestito da persone per conto dell'azienda in cui lavorano, è detto blog aziendale o corporate blog. Per un'azienda fare blog marketing significa utilizzare un blog per comunicare in modo informale ed interattivo con i propri clienti, attuali e potenziali. È semplice da gestire, ma va ben organizzato e pianificato. Allora, abbiamo sentito un brano da una presentazione di una società che si occupa di queste cose, si chiama Salesware, la società si occupano di corporate blogging e affini, e commentiamo questo primo inserto che abbiamo ascoltato con il nostro ospite di oggi, che è un gradito ritorno, Alessio Iacona, che è l'autore di un blog, tra l'altro molto seguito su questo tema, che si chiama blogsforbiz.info e non .com, come avevo scritto erroneamente in un primo tempo. Tra l'altro, l'indirizzo inutile che adesso vi dica che blogsforbiz è scritto con il numero 4, perché tanto poi tutti i link li trovate sul blog di Radio Imago. Per allora, fortuna, tra l'altro, nessuno impara mai questo nome. Allora, cosa ci dici? Qual è la fotografia attuale nello scenario italiano e internazionale del corporate blogging? Va alla velocità che speravi qualche mese fa oppure è ancora un po' lento? Ma innanzitutto buonasera a voi, buonasera a chi ci segue attraverso la radio. Sì, la domanda che fai tu è la domanda che mi pongo tutti i giorni quando comincio a scrivere o quando seguo il mercato sia internazionale che italiano. È lento. Però in movimento, questa è già una notizia di per sé. Quando ho cominciato a scrivere 3 anni fa di questi argomenti era come predicare nel deserto dei tartari, sostanzialmente. Non c'era nessuno, non c'era niente. In America si muovevano delle cose. C'era anche qualche imboscata ogni tanto nel deserto. Sì. In effetti sì, c'era ogni tanto qualche cosa, qualche vlog, qualche finto blog che si spacciava per essere un blog vero d'azienda o comunque un blog di clienti entusiasti. Ma insomma, in Italia non c'era assolutamente nulla. In America si muovevano le prime cose, i primi passi. Perché? Perché in America sono gente sveglia su queste cose, attenta. si erano fatti due conti, hanno visto questa blogosfera, questo insieme di blog che si espandeva a grande velocità, cresceva, sempre più persone usavano strumenti del cosiddetto, come dicevi giustamente tu prima, web 2.0, social networking, strumenti per relazionarsi al di fuori dei canali tradizionali di comunicazione che noi conosciamo, lontano dai messaggi top down della televisione, della radio, dei media tradizionali. E si sono fatti due conti e hanno detto: ma questa gente parla un linguaggio nuovo, come parliamo con questa gente? E hanno cominciato a muoversi 4 anni fa e adesso sono piuttosto avanti. La diffusione dei corporate blog esterni, no, cioè rivolti verso la comunità esterna, non è grandissima, ma quelli che ci sono di grande qualità, e comunque si sa che ce ne sono molti interni alle grandi aziende o a delle comunità ristrette, perché comunque c'è sempre un po' di timore. Ecco, quando succede che in Italia le grandi innovazioni vengono adottate in ritardo, io faccio sempre l'esempio della televisione a colori, c'è in realtà un vantaggio nel fatto di essere follower e non essere leader, cioè si impara anche dagli errori degli altri, no? Si possono studiare i casi di successo, si possono studiare i grandi fallimenti. Un po' come dei parassiti, parliamoci chiaro. Questo è accaduto con la TV a colori, no? Gli americani sono partiti negli anni 40 con uno standard abbastanza frettoloso, l'NTSC, il Never Twice the Same Color, loro lo chiamavano, mai due volte lo stesso colore. Poi noi abbiamo imparato che forse era meglio introdurre un sistema inventato poi dai tedeschi, no? Il famoso PAL, che prevedeva come si chiama, l'alternanza di fase, scusate questi termini tecnici, e dava maggiore stabilità alla componente cromatica del segnale. Allora, imparando da questo errore, oggi noi abbiamo una TV a colori migliore della loro, che poi dopo ci hanno inseguito e di nuovo superato adesso con l'alta definizione. Come possiamo imparare dagli errori degli americani? Allora, considerando che gli errori degli americani non sono poi così tanti, perché è sempre gente che si muove con grande attenzione studiando, insomma, noi che cosa possiamo imparare? Il vantaggio di non essere first mover in un settore è quello che hai detto tu. Il problema è che quando non sei mover affatto, quando non ti muovi... Siamo motionless. Quando rimani... fermo su certe posizioni e fai finta, metti la testa sotto la sabbia e fai finta di non vedere nulla, i problemi sorgono. Oddio, in America non è vero che nessuno si sia fatto male, rimane famoso ormai il caso della criptonite di 2 anni fa, Kryptonite, questa fabbrica di lucchetti che tutti conoscono, chi ha almeno avuto una moto la conosce, ha fabbricato un lucchetto che si apriva con una penna. Questa cosa è stata documentata da un videoblogger, ha fatto giro della blogosfera. Loro prima hanno ignorato la notizia, poi hanno negato, poi quando negare non serviva a nulla, hanno ammesso e hanno perso 10 milioni di dollari. Perché? Perché non avevano un blog con cui interfacciarsi con la realtà della blogosfera da cui questa notizia arrivava, perché l'hanno sottovalutata e perché non hanno aperto un dialogo con questo nuovo, con questa nuova nazione senza confini che è la blogosfera. In fondo quello che mi hai raccontato è un caso di issues management, di crisis communication, no? Sappiamo che, esatto. Così per definizione, ma questo prima che nascessero i blog, una crisi è quando la comunicazione tradizionale di un'azienda non riesce a stare al passo con gli eventi, quindi deve darsi regole nuove e anche una, diciamo così, capacità di reazione molto più rapida. Per questo le aziende una volta cosa facevano? Preparavano i contingency plan, preparavano dei documenti di posizione, dei documenti domande e risposte laddove accadesse qualcosa di molto negativo, e lo facevano le aziende che, come dire, avevano un po' la coda di paglia, perché magari si occupavano di settori controversi come il fumo, come il, che so, anche l'energia, l'inquinamento, eccetera, erano molto preparate su questo. Oggi con i blog la velocità si è ulteriormente raddoppiata, cioè se scoppia una crisi oggi è ancora più grave, è ancora più difficile stargli dietro. Sì, è vero, specie se tu non sai cosa sta succedendo, nel senso, rimanere fuori dalla blogosfera, cioè rimanere lontano da questi strumenti, non praticarli in qualche modo cercando di comprenderle, di fare proprie quelle regole, significa non sapere quello che accade. Vieni colpito a destra e a sinistra da delle frecciate che non sai da dove vengono. Degli asteroidi, sì, esattamente degli asteroidi. Invece se ti applichi, se perlomeno cominci a tendere l'orecchio a studiare, come molti poi hanno fatto e come pare stiano facendo anche in Italia, perlomeno sai da che parte arriva la prossima mazzata. Mazzata che evidentemente arriva, perché se tu all'utente che fino adesso è l'utente cliente, insomma, che fino adesso è stato impotente non ha mai potuto risolvere alcuni problemi che magari ha avuto con te, se non attraverso un call center che ti filtra, che ti trova, ha il modo comunque di silenziarti. Se gli metti in mano uno strumento che potenzialmente può essere ascoltato da tutti, è come dargli un cannone, sostanzialmente. E se non sai come disarmarlo, o perlomeno come giocare ad armi pari, sei con le spalle al muro. E Alessio, volevo chiederti questo, appunto come diceva anche Antonio all'inizio, il corporate blogging si inserisce appunto nella più generale rivoluzione del web 2.0, chiamiamolo insomma come vogliamo, poi le etichette come al solito lasciano il tempo che trovano. E quello che ti chiedo è che, a mio parere, i casi più riusciti di corporate blogging stanno replicando quello che già succede ai blog migliori per il mercato consumer, ovvero diciamo il valore del mashup, nel senso che così come abbiamo blog che in qualche modo danno le possibilità di embedding con per esempio con le net TV o con i social network più famosi, più importanti, la stessa cosa mi sembra stia avvenendo in qualche caso anche per i corporate blogging, dal momento in cui nascono social network rivolti in particolare al mondo corporate, al mondo business, e nello stesso momento in cui nascono le cosiddette business TV, quindi net TV, che hanno proprio questa funzione di interfacciarsi con l'interno dell'azienda ma anche con l'esterno. Sì, ma questo è un fenomeno abbastanza normale, nel senso gli utenti semplici, gli utenti consumer, hanno a che fare con delle tecnologie e ne determinano il fattore di successo in base al gradimento, usandole semplicemente. Quando poi queste tecnologie, che siano la TV, che sia il blog, che siano il social networking in generale, strumenti per conoscersi, per mantenere amicizie anche a distanza, come può essere Facebook, eccetera, quando questi oggetti, questi strumenti hanno successo dopo un certo periodo così di rodaggio, in quel punto diventano oggetto dell'attenzione delle aziende, che si domandano se queste cose funzionano e piacciono alla gente, se qualcuno ne ha determinato con un voto democratico il successo, come possiamo sfruttarle noi? Tra l'altro abbiamo aperto il discorso parlando soprattutto del blog come uno strumento di risposta a un attacco. In realtà questo forse non è neanche corretto come impostazione. Perché? Perché io ho scritto più volte, penso da sempre, che il blog sia uno strumento di comunicazione potente, flessibile, quanto si vuole. Ci puoi fare quello che vuoi. E puoi anche fare comunicazione d'azienda in un modo nuovo, informale, fresco, rapido. E, perché non usarlo in quel caso? Perché non far parlare le persone che ci sono in quell'azienda, restituendo il volto umano alla tua azienda? Perché non far emergere la personalità dietro la professionalità e dare la possibilità alle persone di valore che hai nella tua azienda di veicolare il valore di quell'azienda, che è il loro valore, dicendo le cose che sanno, confrontandosi con una comunità di riferimento, raccontando le loro competenze e facendo capire agli altri perché tu fai la differenza come azienda. Thank you. When you visit blogs or websites around the internet, don't you get frustrated when all you get is like corporate puffery? It's just stuff that the company puts there because they think that that's what you're supposed to do. Whereas actually, they don't connect with you or me personally. It's the same with corporate blogs. They're just like their websites, that the blog appears to be just a press release from the department of goodness knows what, and you just don't connect with it. What we want to hear from are the personal thoughts and ideas of the chief executive, of the marketing director, of the production director. We want to know about the people inside the business, not the business itself. I mean, do you really care what a particular corporation thinks, or do you really want to know what the boss thinks? I mean, are you really concerned with the minutiae of what MySpace thinks, or do you want to know what Rupert Murdoch is going to do with it? That's what we really want to know. It's about the people, which means if you're setting up a corporate blog, if you're going to have a blog for your business needs to speak directly to people on a personal basis. And that's why corporate blogging isn't taking off, because the corporate world is seeing it as corporate. Start seeing it as personal, start seeing it about people, and suddenly the world of corporate blogging really will take off. Well, Bobcat says a whole boner, cocaine, give me some of it. I believe I'm sinking down. Allora, abbiamo sentito un brano di un guru, uno di questi guru che imperversano sulla rete sul tema del corporate blogging, di cui fa, categoria di cui fa parte secondo me anche Alessio, pieno titolo. Non esageriamo, io non sono così appassionato quando parlo di blog. Beh, Graham Jones, che abbiamo sentito poco fa, sicuramente ne fa una ragione di vita quando gli viene in mente qualcuna di queste illuminazioni come quella che abbiamo sentito nel suo splendido inglese stile BBC. Lui cosa fa? Prende la videocamera, si mette lo sfondo dei libri un po' alla Demetri Volcic e comincia a parlare e fa tantissimi accessi, tantissimi ascolti, perché ha sempre delle cose molto interessanti da dire. Lui ci ha in qualche modo ricordato quello che dicevamo all'inizio, cioè che in realtà questo fenomeno del corporate blogging è una delle tante manifestazioni di una rivoluzione di più ampio respiro, che è quella che sta accadendo nella comunicazione aziendale, che una volta in qualche modo blindava i messaggi dall'alto verso il basso, tutti dovevano rispettare questa consegna in qualche modo, e arrivava al pubblico esattamente così come era stata concepita. Non c'erano i messaggi chiave, poi sì, esistevano tanti strumenti, tante modalità, i comunicati stampa, eccetera, però il messaggio rimaneva intonso, immacolato. E invece adesso l'azienda deve far parlare le persone lasciando una certa anche libertà, no? Il messaggio in qualche modo viene, il messaggio aziendale viene modificato, e quindi nasce una cosa che si chiama la policy. Che cos'è esattamente la policy? Allora, io prima vorrei rassicurare i colleghi della comunicazione tradizionale dicendo loro che il loro lavoro non è finito. In realtà tu hai detto, quando dici che adesso la comunicazione è parlare uno a uno, eccetera, è anche questo. Voglio dire, a seconda dello strumento che tu usi, c'è un tipo di comunicazione da applicare. Quindi tutta la comunicazione tradizionale resta molto forte legata ai media tradizionali, mentre nel nuovo contesto bisogna ragionare diversamente. La policy è uno strumento che garantisce l'azienda, ma garantisce chiunque pubblichi un contenuto su internet e che quindi si esponga in prima persona facendo delle scelte, dicendo delle cose, prendendo delle posizioni, quindi anche l'azienda. La policy è uno strumento che più semplice è meglio è, che deve essere condiviso con il lettore e che risponde al vecchio adagio di patti chiari, amicizia lunga, cioè... se uno apre, come è successo con per esempio il famoso esempio del blog Quelli che Bravo, che è il blog che la Fiat ha fatto per seguire il lancio della nuova Bravo. C'è una policy semplicissima: questo blog è dedicato a questa macchina, parleremo di questo. Tutti i commenti sono ben accetti, tranne gli insulti, i commenti volgari o semplicemente quelli off topic. Sono moderati e quindi tutto quello che non è coerente con questo blog noi lo buttiamo via, né più né meno. Probabilmente ci avranno ragionato per settimane su questa cosa, ma alla fine, se il loro ufficio legale gli ha detto che questo andava bene e bastava, evidentemente questo va bene e basta. Quindi la policy l'azienda la decide d'accordo con la comunicazione corporate e l'ufficio legale, fondamentalmente. Ma sì, ci sono dei vecchi punti di riferimento che io non mi sento di dire che bisogna tirare giù. C'è gente che conosce il suo mestiere e che lo sa applicare in qualsiasi contesto. Poi però nel momento in cui tu pratichi un certo tipo di comunicazione devi sviluppare dei linguaggi, devi comprenderne delle regole. È chiaro che il blog di quelli che è bravo non è scritto come un comunicato stampa, perché verrebbe... Non ci andrebbe nessuno. È come ha detto poco fa Graham Jones, cioè esatto. La gente non vuole vedere sui blog le stesse, lo stesso linguaggio marchettaro che vede in certi comunicati stampa. Devo dire, i comunicati stampa di matrice anglosassone sono anche peggiori dei nostri, cioè quando leggiamo il lancio di un prodotto in un comunicato stampa è difficile distinguerlo francamente da un volantino, sì. O da un leaflet o da una brochure eccetera. In Italia quantomeno il comunicato stampa cerca di trovare una news angle ancora. C'è una strategia leggermente, paradossalmente in questo, io che ho lavorato a lungo negli uffici PR sia a livello internazionale sia a livello italiano, nei lanci di prodotto io vedo un linguaggio forse più evoluto verso questo futuro del web 2.0 in Italia rispetto che in altri paesi, quindi non buttiamoci sempre giù, non no, diciamo assolutamente. Sempre... No, ma poi se consideri, ecco, la policy che cos'è? La policy è un accordo che tu fai col lettore, è un accordo attraverso il quale tu stabilisci di che cosa parlerai, di che cosa non è neanche giusto parlare, è come quando tu inviti qualcuno a casa tua, perché il blog è casa tua, il blog è la tua presenza online, la presenza di chi scrive. Ora, in quelli che è bravo sono due persone che fanno parte dello staff Fiat, affiancate da due esperti di Leo Burnett, che gli dicono più o meno come muoversi, ma poi sono loro che scrivono in linguaggio informale, fresco, rapido. Allora tu dai delle regole, ti puoi sedere lì, non puoi spegnere le sigarette per terra, è molto semplice, non ti sta bene, esci, quella è la porta. E c'è chi in America ha fatto votare la policy, nel senso l'ha scritta di suo pugno, l'ha pubblicata come sotto forma di post con i commenti sotto, ha incassato una serie di commenti, l'ha corretta in base a quei commenti, l'ha pubblicata tre volte e alla fine l'ha messa nello spazio dedicato. Quella è una policy condivisa con i lettori. Tutti quelli che sono lì perché sono d'accordo, gli altri possono semplicemente andare altrove. Beh, questo in qualche modo mette d'accordo il tema del corporate blogging con un altro tema che è quello del corporate bashing, cioè esiste una amplissima categoria di persone che non vedono l'ora che un'azienda apra un blog per poter in qualche modo scagliarvisi contro per motivi che non hanno nulla a che vedere con i singoli prodotti, con i singoli servizi, ma che hanno molto più a che vedere con una diversa visione del mondo che in qualche modo su internet sta venendo fuori. Sì, guarda, la questione è questa. Le aziende hanno paura del blogging, del corporate, della blogosfera, del social networking, ma ne hanno per le ragioni sbagliate. Fanno bene ad averne, ma le hanno per le ragioni sbagliate, mi spiego. Fanno bene ad averne perché ignorandole, trascurando questo mondo, facendo finta che non esista, ignorando la rete con tutte le sue potenzialità di comunicazione, questa nazione digitale nella nazione che si viene a creare, non solo pendono, ignorano i loro clienti futuri, perché quello è una grossa fetta del nostro futuro, ma perdono una grande occasione, perché ci sono strumenti, possibilità, occasioni da cogliere, da capire, del tutto nuove. In secondo luogo, secondo me, io dicevo, fanno bene averne paura, perché le ragioni sbagliate quali sono? Hanno paura di essere attaccati. Allora, ci sono due esperienze che posso portare qui sulla mano, e sono quelle di Mandarina Duck e quelle sempre del blog di Fiat. So da diretti responsabili, perché ho parlato anche con il responsabile del blog di Mandarina Duck e con Federico De Nardis, che è responsabile dell'agenzia media della Fiat, che ha comunque in qualche modo avvallato il progetto Quelli che è bravo. Entrambi mi hanno confermato una cosa, che prima di uscire con questi blog hanno passato mesi e mesi a studiare le risposte a eventuali critiche, quindi in qualche modo a fare un esame di coscienza. Un esame di coscienza approfondito, prolungato, per il quale hanno studiato tutte le risposte. Allora, sai qual era il risultato? Il risultato è stato che quando hanno pubblicato i blog nessuno gli si è fatto venire in mente di andare lì e insultarli. Erano tutti entusiasti dell'idea, andavano a parlare di quello che poi era il tema del blog, i prodotti di Mandarina Duck, la macchina di Fiat. Ma la cosa ancora più divertente è che loro si sono ritrovati, prima di uscire, con in mano un case study della propria azienda con tutte le criticità evidenziate e una serie di risposte possibili. In pratica il corporate blog aveva fatto loro bene prima ancora che lo facessero. C'è un testo recentemente tradotto anche in Italia che sta facendo discutere anche sulla blogosfera, testo si chiama Wikinomics di Tapscott e Williams, e sostanzialmente appunto questo testo dice che proprio in questo contesto del web 2.0 le imprese possono mettere in condivisione delle risorse, delle informazioni una volta tenute celate con i propri clienti, con il mondo esterno, e trarre vantaggio da questa collaborazione, aprirsi al mondo, aprirsi ai clienti e quindi andare a cercare al di fuori delle loro mura le risorse migliori, le idee migliori, la creatività che non poteva entrare all'interno dell'azienda. La domanda che ti faccio allora è: che ruolo può avere il corporate blogging all'interno di questo contesto? Guarda, la chiave di tutti questa piccola grande rivoluzione, a seconda della prospettiva da cui la vuole guardare, che sta avvenendo è nella condivisione. Condividere idee, condividere risorse, condividere occasioni, condividere consigli, ma anche condividere i problemi e risolvere insieme. Ed è dimostrato che questo rende più forti. Allora, la tradizionale ottica dell'azienda, che si chiude a riccio per difendere la propria specificità, che spesso è male interpretata, perché ritiene specifico ciò che non lo è un modello che secondo me è destinato a passare, ma per un semplice calcolo economico. Allora, Bruce Perens, che è l'apostolo dell'open source, ha fatto una distinzione molto precisa in questo senso, parlando di software che serve per il funzionamento di un'azienda. Però questo va bene per qualsiasi cosa. Lui dice che ci sono differentiating and non-differentiating issues in un'azienda. Ossia, ci sono delle cose che ti rendono diverso dagli altri, quelli le devi proteggere, le devi difendere. Ci sono delle cose che non ti rendono diverso dagli altri, che tutti gli altri usano, ma che tu per qualche ragione tendi a proteggere, a sviluppare da solo, a fare il quadruplo della fatica quando potresti condividerlo con gli altri, insieme potresti farlo meglio, più velocemente e a un costo minore. Gli esempi sono quelli che vuoi: il PageRank di Google è un differentiating, no? Il sistema di giudizio incrociato e di voto che c'è su Amazon è un'altra cosa che rende Amazon diverso da tutti gli altri. Ma poi ci sono una serie di cose che loro usano per funzionare che potrebbero tranquillamente essere sviluppati da comunità. Ed è dimostrato che le comunità che condividono la conoscenza e le risorse, in realtà sono aperte e disponibili a un modello economico, funzionano, e che non siamo abituati ad usarli. Solo i soldi che si spendono per difendere cose che non meriterebbero di essere difese. Allora, il senso di Wikinomics, che poi è Wikinomics, Wiki vuol dire veloce, rapido, non so se lo ricordate, quindi rappresenta questo tipo di sito facilissimo da mettere su, che può essere editato da tutti, ma che a differenza dei forum, dove a differenza dei forum tutti possono tornare a rieditare quello che hanno scritto gli altri. E questo è il massimo della collaborazione possibile. Io non difendo quello che ho apportato al gruppo, ma lo metto a disposizione degli altri perché a loro volta possano migliorarlo se è necessario. E i risultati si vedono, perché il risultato è Wikipedia, con tutte le sue contraddizioni. Ma quale sistema non ha delle contraddizioni? Ecco, per chiudere, Alessio, sul tema dei corporate blog, io in questi giorni ovviamente sono andato a leggere il tuo sito e sono rimasto molto colpito e anche molto divertito da un tuo post in cui segnalavi come il grande capo di Forrester, il grande analista del mondo dell'IT, che si chiama George Colony, a un certo punto ha dichiarato davanti a microfoni, telecamere, si è svegliato una mattina e ha detto alle aziende che devono assolutamente aprire un blog, cominciare a conversare con i clienti, cioè tutte le cose che un sacco di gente, non solo noi, dice da molti anni. Allora quello che mi chiedo è: ma insomma, non sono rimasti un po' indietro gli analisti IT? Cioè, lui ha parlato come se fosse il primo a dire questa cosa, come se fosse una sorta di messia. Io ho la sensazione che intorno a questo tema e a tutti i temi del web 2.0, tutti quelli che hanno un capitale, una reputazione da difendere, un marchio, come in questo caso Forrester, ma anche molti giornalisti, per esempio, che scrivono da molto tempo di questi temi, devono comunque dare la sensazione di essere i primi a parlare. E questo è abbastanza mortificante, perché fa il paio con la tendenza che hanno le aziende adesso ad aprire magari il blog di corsa solo per avere l'articolo sul giornale, e quindi non hanno capito assolutamente nulla. Ma guarda, questo è un vecchio trucco, nel senso: di una cosa come se fossi il primo a dirla, dirla con convinzione e sarai tu il primo ad averla detta. Poi dipende anche da che livello parti. Evidentemente alla Forrester hanno l'impressione che se una cosa non la dicono loro ancora non è data per vera o per scontata, quindi tant'è, probabilmente lo pensa davvero. La realtà dei fatti è che che questa cosa è qui, esiste, si muove, è vera. Io quando ne parlo sembra che sono infervorato, che ci credo. In realtà sono stupito del fatto che ancora siano così tanti che non se ne sono accorti. A me sembra di dire delle ovvietà. Forse perché non ne hanno parlato abbastanza i giornali, la radio, la televisione. Ma ai giornali bisogna dare il tempo di capire che cos'è ancora l'internet 1.0 e cosa sono i portali verticali. Quando avranno finito di capire quelli, finalmente ci troveremo a parlare di quello che segue, insomma, fra una decina d'anni, con calma. Va bene, anche ti ringrazio per il complimento indiretto che hai fatto a questa trasmissione. Noi rimaniamo con Alessio anche per commentare altre cose che diremo più avanti e facciamo una pausa musicale. Secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Because tonight I want to learn all about the secrets in your garden. I want to read your mind. Know your deepest feelings. I wanna make it right for you. Baby, show me. Let me share the mystery. Oh, come on, come on, come on, come on. Listen to your heart tonight. Make it all right, yeah. I know a melody that we could sing together. I've got the secret key to you, babe. Let's make music harmonizing. Come on and sing it to me. Here in the garden, the temptation is so right. Passion can make you fall for what you feel. Here in the garden, we can make it come alive. We can make it come alive. You want me to all night. Gonna hold you. Ooh, baby, can I touch you there? Come on, come on, come on, come on. I can keep you satisfied, baby. Il meglio di te lo ritrovi su Radio Il Mago. Allora, noi pensavamo di esserci liberati di Daniela, avevamo inventato la frottola che aveva la febbre, che stava a casa, che non si sentiva bene, che non sarebbe potuta intervenire, poi in realtà Daniela ha sentito Alessio, noi discettare amabilmente di corporate blogging e ci ha telefonato. Sto tremando. Ciao Daniela. Buonasera, no, io effettivamente sto male, ma non potevo non ascoltarvi e quindi non avere le mie classiche obiezioni che mi... Tirare la tua bordata, insomma. Scatenati, Daniela. Ciao, no, Daniela. No, il mio è un scetticismo... Sano. Sano? Secondo me sì. È bello detto da te che ci lavori in questo campo. È scetticismo perché ho visto che... parliamo da utente. Come utente io mi trovo male con i call center e quindi io non penso che una qualunque società possa sia in grado, abbia le risorse di gestire all'interno i propri blog, e quindi il rischio è che qualunque mio intervento su un blog venga fatto, abbia come interlocutore un customer care, quindi gente che non ha alcun interesse al bene dell'azienda. E questa è la prima domanda. E tutto questo anche in funzione del fatto che non, tutto ciò che è su internet non copre la totalità degli utenti, e quindi un'azienda che spende soldi per questo servizio sa comunque di non coprire la totalità degli utenti. Quindi tutto qua, non sei cattiva come al solito, credevamo peggio, Daniela, francamente. No, è lo scetticismo, stavolta ho parlato da utente, dai, non ho parlato da tecnica, perché io come tecnica sono cattiva, come utente sono scettica. Posso rispondere? Ti dicevo sano scetticismo, perché senza scetticismo, senza la possibilità di mettersi in discussione, secondo me non si va da nessuna parte. Allora, le due cose che tu tocchi sono molto interessanti. La prima è quella del blog al posto del customer care, o del blog preso in gestione da gente abituata a trattare con il pubblico. Allora, su questo sono molto fiducioso, nel senso, è dimostrato, si è visto in molti casi, anche con smascheramenti straordinari, come è successo per esempio con tre blog costruiti ad arte dalla Edelman per Walmart, che fingevano di essere blog di utenti entusiasti e poi si è scoperto che non lo erano. Pensa un po', perché avevano registrato il dominio con il nome di Edelman, quindi se ne sono accorti facendo whois sulla rete, una cosa pazzesca. Ecco, ma la gente se ne è accorta perché comunque voleva indagare, voleva sapere, voleva approfondire. Se tu fai una cosa che è patinata e poi la nascondi, la camuffi, eccetera, il bello di internet è che il sistema tende a bilanciare se stesso. C'è sempre qualcuno più furbo di te che ti mette alla berlina se stai barando, quindi generalmente si tende ad autofiltrarsi, le cose vengono fuori, anche perché la gente è molto attenta, lì ha più strumenti, li vuole usare dopo essere stata passiva per diversi anni. Il problema è che, cioè, io, scusami se ti interrompo. Prego. Alessio, ma il discorso secondo me è diverso. Piuttosto che sprecare energie nel aprire una nuova finestra nel mondo che rischia comunque di non essere seguita bene, comunque rischia di avere mille criticità, perché invece non prendere delle persone all'interno dell'azienda che facciano un monitoraggio continuo su quelli che sono le opinioni delle persone sparse su blog, su mille siti, e prendere spunto da queste parlando, cioè facendosi un minimo di analisi di coscienza. Guarda, quello che tu dici è giusto ed è stato pensato, è stato fatto, viene fatto tuttora. C'è gente che ne ha fatto un mestiere dell'ascolto della blogosfera come fonte di Sì, però quella è la reputation, io non voglio, ma anche di consigli, c'è Mauro Lupi che lo fa di mestiere, questo voglio dire. Però il problema è questo, che questa gente, che queste persone, allora tu dici non sono molte, scusami se ti interrompo, Alessio, stai comunque parlando di persone all'esterno dell'azienda, quindi di persone che non hanno cuore, che non conoscono, che non possono fare prendere proprio il succo del problema e riportare ai capi. Cioè, questa cosa non deve essere delegata all'esterno, a mio avviso. Ma il corporate blogging, tu dici? No, parlo di questa analisi dello studio, delle opinioni delle persone. Guarda, ci sono due strade sostanzialmente, una praticata in maniera classica e l'altra nuova. Una strada classica è quella di affidarsi a degli analisti che analizzano lo strumento, il medium, in questo caso internet, lo seguono, si fanno una media di quello che ascoltano e poi ti portano un rapporto. L'altra è usare nei vari usi che si possono fare, tra i vari usi che si possono fare del blog, perché non è solo questo, usare un blog da mettere in mano a una, due o tre persone che sono dentro l'azienda, che l'azienda la conoscono, che hanno passione di quell'azienda, che la amano in qualche modo e che sanno anche scrivere e rapportarsi con terzi, e metterli a dialogare con questa grande comunità che ha voglia di interagire. Una comunità che è più grande di quello che tu credi, che comunque è in espansione, che c'è, che è viva, che è un peccato lasciare abbandonata a se stessa. E considera che adesso gli italiani online sono 22 milioni. Tutto sommato è un terzo, poi ci vanno in modo diverso, non sono tutti su ADSL, non tutti sapranno neanche quello che stanno facendo, ma la tendenza è all'aumento. Allora c'è una comunità crescente, sempre più forte, che ha bisogno che le aziende si rivolgano ad essa e ha bisogno di poter parlare con l'azienda. L'unico modo in cui puoi farlo è usando il loro linguaggio. Ma non solo, Daniela, io vorrei aggiungere, avendo lavorato a lungo nella comunicazione aziendale tradizionale, che quando la mia esperienza mi dice che quando arriva una nuova modalità di interazione con i tuoi interlocutori aziendali, tu se non parli, se non usi questo strumento, non è che smetti di comunicare, tu continui a comunicare la tua inerzia. E quindi qui si tratta di scegliere se provare a gestire questi nuovi canali o non gestirli per niente e lasciare completamente l'iniziativa ai tuoi interlocutori. Ecco, questo è un po' diciamo il primo allarme che c'è stato nella comunità dei comunicatori d'impresa. Oggi per fortuna ci siamo molto raffinati rispetto a questo approccio estremamente difensivo e stiamo entrando nelle corde di quello che dice Alessio, però non con la sufficiente consapevolezza, non con la sufficiente maturità, ed è per questo che io credo che la trasmissione di oggi stia chiarendo alcuni punti importanti, fermo restando tutto quello che tu hai detto sulla necessità di ascolto, che io sottoscrivo al 100%. Poi chiudendo, voglio dire, il blog che cos'è? Uno strumento di pubblicazione online estremamente semplice da usare, è uno strumento che ti consente di pubblicare dei contenuti e renderli disponibili virtualmente a tutti, poi il pubblico che hai fa la differenza. Ora, quello che tu hai da dire fa la differenza. Se sei un libero professionista che ha delle idee che non ha occasione di esprimere, puoi esprimere, raccontarle e porti in qualche modo come leader nel tuo settore, perché hai delle idee forti che vincono, che convincono la gente, che stimolano un dibattito. Perfetto, ma se io sono un blogger, la mia opinione non la vado a scrivere sul blog dell'azienda, la vado a scrivere sul mio blog. E quindi ci deve essere qualcuno che viene a leggere la mia idea di quel prodotto buggato. Cioè, cerchiamo di capire, ognuno su internet è molto autoreferenziale, quindi se io devo parlare male di qualcosa non vado a cercare il sito dell'azienda, oppure lo faccio con una mail, ma quella mail io poi la pubblico sul mio sito e questa pubblicazione è comunque un, chiamiamolo, danno all'azienda stessa, se l'azienda non si rende conto di quello che io ho scritto. Ma in genere in America veramente accade spesso che se tu sei un blogger e hai qualche cosa da ridire o delle osservazioni da fare, anche dei consigli, perché non vieni lì solo per melare mazzate, ma anche per cercare di migliorare quello che l'azienda produce per te, che tu vuoi comprare, in genere fai due cose. Sicuramente metti un post sul tuo blog, dopodiché o commenti anche sul blog dell'azienda, se l'azienda ce l'ha e se è relativo a quel prodotto, oppure mandi un bel trackback dal tuo blog a quel prodotto. Quindi comunque crei un link, crei una conversazione che poi si avvia e viene seguita anche da altri. A questo punto, sai, Daniela, normalmente quando sei in studio che succede? Gli ascoltatori non lo vedono, ma ti faccio dei gestacci, ti faccio vedere l'orologio, ti dico tagliamo, deve andare in onda il guru, come fai? Sono quasi le 8. Perdonami l'intervento, tu lo sai, non riesco a stare lontana di questa trasmissione per troppo tempo. Ed è per questo che ti amiamo così tanto, Daniela. D'accordo, un abbraccio, Daniela. A presto, ciao, a presto. Allora, bellissima la telefonata di Daniela, che ha ridato alla trasmissione il giusto clima di dibattito che la contraddistingue e non quella autocelebrazione che spesso caratterizza questo tipo di forum. Ah, pensavo a me, credo. No, ti riferissi a me. In quanto blogger. No, dunque, adesso invece passiamo al tema di Guru Meditation di oggi, riprende la rubrica delle interviste che realizziamo in esterni. Sabato scorso siamo stati al Venture Camp di Roma, alla John Cabot University, luogo di incontro di venture capitalist da un lato e giovani imprenditori dall'altro. E abbiamo provato a tracciare un mezzo bilancio, diciamo, di questa giornata con un giornalista che scrive di queste cose, che è un osservatore privilegiato su queste tematiche, come Leo Sorgi. Guru Meditation. Allora, Venture Camp di Roma, 6 ottobre, siamo in compagnia di Leo Sorge, che sta assistendo ai lavori. E al quale chiediamo non un bilancio, perché ancora non è finito nulla di questa giornata, però secondo te, che insomma scrivi e fai anche il giornalista di queste cose, se tu dovessi fare il titolo adesso come lo faresti? Venture Capital in Italia solo per da 1 milione di euro in su. Sì, ma questo 1 milione di euro in su chi ce lo deve avere? Bisogna averlo già in tasca in realtà. Adesso chiaramente in poche parole è difficile, sono partito da una cosa che faccia sorridere, faccia capire che in realtà in Italia non c'è ancora una struttura neanche mentale rivolta al finanziamento di idee. Tutti sono d'accordo che ci siano un certo numero di idee, probabilmente non dovrebbero essercene troppe nel mondo della tecnologia, anche se qualcuna sì, ma di più in altri settori come il lifestyle, la moda, il cibo, eccetera eccetera. E, però, come dire, rimane il fatto che il primo stadio è difficile da finanziare. Poi che questo primo stadio venga a costare 50.000 euro o 1 milione di euro, che per inciso è la somma indicata da Artom, uno dei relatori in audioconferenza, anzi anche Arturo Artom, per avere un progetto solido che possa essere funzionante anche in America, direttamente aprendo una società americana, questo diciamo è un fattore accessorio, insomma. Ecco, forse io se dovessi fare il catenaccio, il sommario di questo tuo titolo, aggiungerei venture capital sì, ma all'americana, non all'italiana, perché da noi non funziona, non tanto per i lacci e lacciuoli di tipo legislativo, perché quello è più un alibi, almeno così diceva Artom, quanto semplicemente perché oggi sarebbe più facile là che qua. Sicuramente, il catenaccio va benissimo. Poi nel testo dell'articolo si metterebbe che si inizia a vedere qualcosa in Italia, quindi qualche punto di aggregazione, qualche persona che possa aiutarti, i cosiddetti business angels, o addirittura in quella che viene chiamata early stage, cioè proprio l'inizio, le prime fasi di lavorazione di un business plan, di un financial plan, di un exit strategy, eccetera. Per cui, diciamo, rispetto a solo 2 anni fa, adesso c'è comunque spazio per consulenza, per se qualcuno ha delle idee e crede di poterle sviluppare in un modo competitivo, adesso si sa come farlo. Ecco, da una parte confortante. Meno confortante invece, sempre tornando alla relazione in videoconferenza di Artom, questo fatto che le idee che arrivano da un paese come l'Italia, anche in un mondo globalizzato, hanno più possibilità di essere accolte con successo se vengono associate a quei settori per cui l'Italia è famosa: fashion, design, lifestyle. È inutile che ci affanniamo troppo a studiare noi soluzioni di software, web 2.0 eccetera, perché per esempio un israeliano con il progresso di percezione positiva, no? Partirebbe da una posizione di vantaggio. Tu che ne pensi? Ma sai, la risposta è sì e non c'è nessun altro commento da fare. Benissimo, il caso di una domanda che è stata 20 volte più lunga della risposta. E adesso abbiamo, diciamo, esaurito un po' la notizia, la parte seria. Io adesso con te, che sei un personaggio con cui riesco sempre a farmi 2 risate, ti vorrei chiedere: c'è stata un'altra relazione poco prima di un signore che lavora per una importante società di venture capitalism americana, Marini, esatto, Giacomo Marini, di una società che si chiama, non me lo ricordo più. Sì, adesso mi verrà in mente. C'ho qui il programma. Sì. Si chiama Marini, che si chiama Noventi, ecco, benissimo. Allora, questo signore, fondamentalmente alla fine della sua presentazione mi sono convinto di una serie di cose. Non importa avere una buona idea per ottenere capitale, importa mandargli delle presentazioni stampate. Punto primo. Importa presentarsi al primo appuntamento in 5 e non in una sola persona. E poi importa fare almeno 5 telefonate, perché alle prime 5 loro comunque diranno non ti rispondono, e poi dalla sesta, perché devono misurare il tuo reale interesse. Ma quanto di tutto questo è folklore o quanto è verità? No, dunque, è tutto vero, però non sposerei l'affermazione che quello che conta di più è la confezione, ovvero sia tu devi essere il primo a fare marketing di te stesso e della tua idea, e lo devi declinare nella lingua di chi può aiutarti, e in questo caso vuol dire fare il buon business plan, farlo con file in un certo modo, lo spreadsheet che sia modificabile, fare le 5 telefonate, eccetera. Ma questo è soltanto pubblicità all'idea. Stai tranquillo che se c'è l'idea loro la trovano. Se l'idea non c'è, puoi fare tutto il business plan che vuoi, ma la risposta sarà sempre no, thank you. È una condizione necessaria ma non sufficiente. E passiamo, visto che insomma tu sei tra i promotori di questa, usciamo dall'ambito del venture capitalism, io approfitto del fatto che sei qua per aggiornarci tutti quanti su questo evento di dicembre che si chiama Più Blog, la seconda edizione. Forse sì, forse no, in questo senso Più Blog, quello che è stato Più Blog nel 2006 ci sarà, quest'anno si chiamerà Area Blog by Splinder, perché Splinter ha sponsorizzato l'evento. La notizia è recentissima, è di venerdì scorso, quindi siamo ancora in fase di modifica delle questioni, dei programmi, dei palinsesti. Però c'è questa cosa che ci inorgoglisce, perché chiaramente è un blog sponsorizzato da un blog, un'area blog sponsorizzata da un blog, come dire, sembra semplice, ma in realtà non è così semplice da ottenere. E siamo sicuri che sarà di reciproco successo sia per noi che per Splinter, che faccia iniziare un'altra serie di collaborazioni, anche se più blog come marchio continua a esistere sul web. Sì, infatti, perché c'è questo blog che aggrega altri blog, tutti un po' di profilo letterario, mi pare di capire, no? Tutti con velleità. Tutti i blog hanno velleità, blog uguale io. Quindi il pronome personale più diffuso. Scusa, c'è una cosa che non abbiamo detto. Questo evento si svolge a Roma, al Palazzo dei Congressi, quando? Dal 6 al 9 dicembre. Benissimo, nell'ambito della solita fiera Più Libri, Più Liberi, esatto, la fiera della piccola e media editoria. Grazie Leo per il tuo tempo, allora ci vediamo a dicembre. Grazie a voi, salve. Bene, Alessio, anche tu eri al Venture Camp, mi pare di averti intravisto in mezzo al pubblico, alternavi espressioni di scetticismo, di interesse. Sei d'accordo col titolo che avrebbe fatto Leo? Sì, sono d'accordo, così come sono d'accordo. Quando hai visto scetticismo stava parlando appunto Marini, perché è veramente uno spettacolo da dimenticare. Invece non sono d'accordo con l'affermazione che l'Italia non sia competitiva sul software, o meglio, mi ha convinto uno dei personaggi che sono intervenuti durante il Venture Camp, che era Fabrizio Campobianco di Funambol. Funambol è un'azienda italiana che produce software che non ha niente a che vedere con Acrobat, no, anche se concettualmente potrebbe, che produce software open source per il messaging, mobile messaging, quindi per i telefonini sostanzialmente. Questo signore si è dovuto trasferire a vivere in America, nella Silicon Valley, per poter instaurare un rapporto di lavoro con dei venture capitalist in America, che gli hanno dato i soldi per fare questa azienda. Ma la cosa divertente è questa, è che lui si è dovuto trasferire lì e il management, sostanzialmente sono una trentina di persone, sono lì nella Silicon Valley, perché spiegava: i finanziatori americani vogliono averti a portata di macchina, così se qualcosa non va fanno un giro, fanno una corsa, vengono lì, aprono la porta e ti urlano in faccia. Però lo sviluppo software, tutto lo sviluppo software di questa azienda, che ha venduto a operatori di tutto il mondo, compreso Vodafone, è a Pavia. Ci sono 40 persone che lavorano e lui sostiene che questo modello di business non solo è sostenibile, ma è destinato a crescere, perché l'Italia è fortemente competitiva dal punto di vista dello sviluppo software, per competenze, per anche per costi di lavoro, perché è vero che gli indiani costano, era vero fino a qualche tempo fa che gli indiani costano di meno, adesso cominciano a costare sempre di più perché sono bravi, ma non hanno nessun legame con l'azienda e non hanno leggi che difendono il copyright. Quindi quando un ingegnere indiano se ne va da un'azienda, porta dietro quello che ha fatto e lo dà all'altra che è concorrente, che lo ha pagato di più. Questo in Italia non succede, perché c'è un forte attaccamento all'azienda, un forte spirito di corpo, un forte spirito di partecipazione. Quindi lui ha creato un modello, Campobianco dice che questo modello funziona, e secondo lui l'Italia è competitiva con tutto l'Oriente, perché offre una creatività maggiore e perché ha uno spirito diverso. È riuscito a convincere gli americani a dargli, credo, 10 milioni di dollari, ma non sono convinto di questo, una cifra notevole comunque. Sì, ma i numeri erano sempre, ogni tanto giravano dei numeri, delle cifre altissime. Sì, gente aveva messo di tasca sua 1 milione di euro come se fossero bruscolini, questo è vero. Comunque è riuscito a convincere gli americani a credere in un progetto open source, a fare offshoring con l'Italia. Evidentemente non è un'idea così peregrina. Bene, allora ribattezzeremo Pavia come New Bangalore e ringraziamo Alessio per i suoi contributi ormai a 360 gradi, perché è uno di questi personaggi che, insomma, se c'è un bar camp c'è anche lui, insieme a questa combriccola di osservatori privilegiati. Non so se sia un complimento, lo prendo come tale. Beh, diciamo, sarebbe un po' autolesionistico, visto che cerco di esserci sempre anch'io. Ringrazio anche Stefano per l'importante supporto anche in questa circostanza, e ti avremo molto presto in altre trasmissioni, non necessariamente così seriose. Grazie a voi davvero. Spero anche a me, non così seriose. E ringraziamo tutti per l'ascolto e diamo appuntamento a giovedì prossimo. Radio Imago ha presentato Proxy Bar di Antonio Pavolini e Daniela Apollonio.